Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Qualche sera fa ho avuto modo di ascoltare l'accorata lettera della signora marchigiana che ha perso il lavoro a causa della concorrenza cinese. Devo confessare che mi si è stretto il cuore ad ascoltare le parole e la disperazione di quella signora. Disperazione che comprendo benissimo, perché già nel 96, quando ancora ben pochi si accorgevano di quanto stava per accadere, io stesso sono rimasto travolto dalla concorrenza cinese. La mia attività si svolgeva nel settore della ceramica da casa e regalo. Tutto bene, fino a quando un bel giorno un importatore italiano ha immesso sul mercato una linea di prodotti letteralmente copiata dai miei, fatta in Cina con dei prezzi che neppure coprivano il decimo dei miei costi. Lì è stato l'inizio del calvario. A poco, ma inesorabilmente, anche tutti gli altri settori produttivi, pelletteria, maglieria, confezioni, mobili, articoli casalinghi e tanto altro, sono stati aggrediti e distrutti dalle produzioni cinesi, senza che nessuno dei nostri governanti abbia cercato di arginare l'invasione o di difenderci. Adesso i cinesi stanno prendendo in mano non solo la produzione, ma anche la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, stanno aprendo negozi in ogni dove, non rispettano le regole sindacali e i contratti di lavoro, cui noi italiani siamo giustamente chiamati a riferirci, sfruttano la manodopera minorile, immettono sul mercato prodotti tossici e talvolta dannosi. Il tutto sotto gli occhi di autorità che ben poco fanno per salvaguardarci e proteggerci. Di questo andazzo, entro 5 anni saremo completamente colonizzati. Una domanda. Secondo lei come fa un cinesino che nel suo paese guadagna non più di $30 al mese a venire in Italia, con immensa famiglia al seguito, e a comprarsi i laboratori e negozi, iniziare attività commerciali da zero, campare qui da noi e in pochi anni magari anche arricchirsi? Chi glieli dà i quattrini per iniziare e per finanziarsi, se non un potere occulto mafioso? Cosa ne pensa di questo capolavoro dei nostri governanti di ogni genere e grado? Massimo. Caro Massimo, lei ha fotografato molto bene e con profonda amarezza quanto è avvenuto negli ultimi anni in quella che viene chiamata la divisione internazionale del lavoro dopo il dirompente ingresso della Cina sui mercati mondiali. Ma giustamente lei mette a fuoco un problema essenziale, che non è quello di introdurre rigide barriere protezionistiche, ma di far rispettare le leggi che già ci sono, quelle per la difesa dei marchi e dei brevetti, quelle sugli standard di qualità e sulla sicurezza, quelle molto più difficili e complesse sui diritti dei lavoratori. Vede, caro Massimo, lo scorso anno abbiamo importato dalla Cina merci per 19 miliardi di euro, ma abbiamo anche esportato verso Pechino prodotti per 6 e 5 miliardi. La Cina è sicuramente un grande mercato, un mercato che continua a essere in forte crescita anche nella fascia dei beni di qualità e di lusso in cui l'Italia ha molte carte da giocare. E sono in questi settori i posti di lavoro da difendere ed è per questo che è necessario puntare sulla ricerca e sull'innovazione. La volontà di cambiare può e deve vincere su una rassegnata e purtroppo perdente difesa dei vecchi modelli. Gentile Radio 24, tutti a pontificare sul fatto che la RAI e l'organizzazione di Sanremo hanno fatto bene a vietare il palco del festival a Morgan, perché la televisione deve educare a comportamenti virtuosi e corretti. Ma poi allora non è altrettanto diseducativo per le ragazzette di 15 anni che una signorina alle 8 di sera sia in mutande e reggiseno ad ammiccare verso la telecamera? Per i maschietti sarà anche piacevole, ma immagino che se sei donna e un po' sovrappeso, ti mandi in depressione. Saluti, Francesca. Cara Radio 24, ho appena finito di ascoltare il vostro radiogiornale. In un servizio si parlava del blocco della circolazione a Torino. Nell'elenco delle vetture autorizzate a circolare, oltre alle solite categorie alimentate a metano, GPL e elettriche, erano incluse anche le auto funzionanti a idrogeno, sia a combustione che a celle. D'accordo che l'ex capitale d'Italia è ancora la capitale dell'auto, ma mi sembra che con un'ordinanza del genere volino un po' di fantasia. Che senso ha citare in un'ordinanza auto funzionanti a idrogeno, sia a combustione che a celle, se queste auto in Italia non esistono? Si parla sempre male del Parlamento, del governo, eccetera, ma anche i comuni in ridicolo non scherzano. Cordialmente, Franco. Cara Radio 24, tutti a lodare la riforma epocale delle superiori, eppure a me sembra un'ipocrisia bella e buona. Parlo degli istituti tecnici, del mio istituto tecnico, perché è la scuola che conosco. si è annunciata una razionalizzazione e io vedo che il mio istituto passa da 2 indirizzi a 2 indirizzi con 2 sottoindirizzi e pertanto 4 possibili scelte. Però, come semplificano? Parlo di questo caso particolare che conosco e mi dispiace, perché la mia era una delle migliori scuole d'Italia. Continui successi nelle Olimpiadi di informatica a livello nazionale, a cui ho contribuito pure io, e continuerà ad esserlo, ma per merito dei professori eccezionali che vi insegnano, e non delle chiacchiere dei nostri politici. Non dico che la riforma sarà disastrosa e distruggerà la scuola, però bisogna dire le cose come stanno. -4 ore settimanali al biennio e -4 ore settimanali al triennio, in nome dei famosi tagli e razionalizzazione. Non c'è altro in questa riforma. Ma dai, qui veramente si sta arrivando al ridicolo. Cordiali saluti, Francesco. Gentile direttore, sono insegnante di scuola dell'infanzia e sono in servizio presso la scuola Montessori di Foggia, 9° Circolo Manzoni. Nella mia sezione vi sono 27 alunni, compreso un bambino gravissimo, diversamente abile, seguito da un insegnante di sostegno. Vorrei informare il ministro Maria Stella Gelmini sul fatto che nel nostro plesso, a fronte di 7 bambini diversamente abili, 6 dei quali gravissimi e quindi con rapporto in deroga, il CSA di Foggia ha confermato il personale di sostegno già in servizio negli anni precedenti, 5 insegnanti, e di fatto non ha coperto le esigenze di quest'anno. Pertanto, se il ministro Gelmini afferma che i tagli non sono stati effettuati sul personale di sostegno, come spiegare la mancata assegnazione del personale sui bambini accolti nel settembre scorso? Dal CSA di Foggia, le notizie che sono state fornite sono le seguenti. Il rapporto in deroga cambierà presto e ogni insegnante di sostegno dovrà necessariamente occuparsi di 2 bambini, anche riconosciuti gravissimi nella disabilità. Sarà il comune che dovrà eventualmente inviare personale educativo o di assistenza per affiancare le insegnanti di sostegno. Inutile dire che le finanze del comune di Foggia sono praticamente inesistenti. Grazie per l'attenzione, Anna. Un paio di domande per il ministro Maria Stella Gelmini, che è stata vostra ospite nei giorni scorsi. Economicamente i docenti, non solo i precari, ma specialmente quelli di ruolo, vincitori decenni fa di concorso ordinario, sono trattati in modo ridicolo, a prescindere dal confronto umiliante con i docenti spagnoli e non dico di quelli francesi, tedeschi o svizzeri. A quando l'adeguamento effettivo? Forse quando moriremo? E poi, visto che ora non esistono criteri adeguati di valutazione, vogliamo fare un'effettiva distinzione economica tra supplenti e titolari? Grazie, Umberto. Gentile Radio 24, io credo che l'azione del ministro della pubblica istruzione, Maria Stella Gelmini, debba essere rivolta a dare maggiore autorevolezza, o meglio a restituire autorevolezza, agli insegnanti, pagandoli meglio, facendo formazione e tagliando i rami secchi. E questo sarebbe il primo problema risolto. In tal modo anche gli alunni ricomincerebbero ad aver rispetto per gli insegnanti. E questo è il secondo grosso problema. Perché a mio avviso, al giorno d'oggi, gli alunni si sentono in diritto di contestare, spalleggiati spesso dai genitori, tutto e tutti. E non vi è più quel timore reverenziale presente una volta verso la scuola come istituzione e verso l'insegnante come figura di guida. La scuola italiana deve ricominciare ad essere dura. Simone. Cara Radio 24, ho ascoltato la puntata del 4 febbraio 2010 sulla questione meridionale, dove si prospettava una forma di non-tax zone, evitando, secondo l'opinione di tanti, gli inutili incentivi pubblici a fondo perduto. Io, da meridionale atipico, nel senso che vivo ai limiti della Campania e lavoro nel Lazio, ritengo che la questione principale, anche economica, del Sud sia antropologica. Partiamo dal settore primario, ossia l'agricoltura. La maggior parte delle imprese che operano al sud sono piccoli proprietari che non hanno intenzione di costruire grandi società per realizzare economie di scala e acquisire maggiori sbocchi sui mercati. Il motivo? La diffidenza. La maggior parte di loro, in assenza di familiari o affini che intendano seguitare l'attività agricola, preferiscono lasciare i terreni incolti pur di evitare l'utilizzo a terzi. Le popolazioni del sud hanno un attaccamento atavico alla terra e diffidano fortemente, come tutte le mentalità contadine, delle novità. Mi è capitato di venire a conoscenza di episodi di piccoli proprietari terrieri che al momento della richiesta di restituzione del fondo hanno trovato opposizioni legislative, uso capione, e ritardi giudiziari. La soluzione, talvolta adottata, è stata ricorrere alle organizzazioni malavitose per riavere il proprio appezzamento. Bisogna insegnare a fare impresa. Attenzione però, parliamo di un popolo diverso, con storie diverse, culture diverse e abitudini diverse. In America, ad esempio, il sistema legislativo federale tiene in considerazione le diverse realtà degli stati. In Italia, invece, si pretende che regole di buon funzionamento siano valide a Messina, così come a Trieste. È probabile che il tipo di organizzazione aziendale delle grandi società dei paesi del nord non sia adatto alle realtà del sud, dove tutto ruota intorno al concetto di famiglia. Prima di tentare una reale costruzione dell'assetto economico del sud, bisogna modulare le organizzazioni aziendali pubbliche e private. Alfonso. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.